commento rafforzato dalle statistiche, ma potrebbe anche farne a meno, nel senso che quello che abbiamo rilevato nella lunghissima e densa discussione che c'è stata in questo anno e mezzo, quasi due anni di discussione, soprattutto attorno al piano femminista contro la violenza e a ridosso dell'enorme mobilitazione planetaria contro la violenza sessuale, maschile, patriarcale, e il fatto che le violenze sessuali e le molestie e sui luoghi di lavoro in particolare sono qualcosa di strutturale, sono qualcosa di sistemico, non eccezionale, ma qualcosa che appunto costituisce la realtà in cui viviamo e l'ordine neoliberale. Le molestie sul lavoro sono probabilmente il momento più evidente di tutto questo, lo sono perché sono una modalità di inferiorizzazione delle donne, sono un modo per produrre sui posti di lavoro delle specifiche gerarchie, l'isolamento, il silenzio, perché evidentemente la molestia è una forma di ricatto che isola, no? Che produce una situazione di soggezione che serve a intensificare lo sfruttamento, che serve a costituire le donne come una forza lavoro pienamente disponibile, e la disponibilità sessuale che viene chiesta e pretesa attraverso le molestie è in qualche modo il punto più alto e più intenso di una disponibilità allo sfruttamento che viene chiesta sui luoghi di lavoro. Quindi questo non è soltanto qualcosa che riguarda tutte le donne, che tutte le donne hanno conosciuto, e anche da questo punto di vista le statistiche sono qualcosa di relativo, nel senso che fanno emergere soltanto una parte di realtà, ma è qualcosa che va al di là della condizione femminile, perché è parte di processi di precarizzazione molto più ampi che proprio le donne in qualche modo hanno anticipato, perché anche le molestie sessuali le hanno messe in quella condizione di ricattabilità e di solitudine che oggi è una sorta di paradigma del lavoro contemporaneo. Ecco, interessante questa statistica che riporta anche i dati delle molestie subite dagli uomini, e innanzitutto salta all'occhio il dato che sono meno della metà, e quindi insomma la questione forse femminista esiste, ma è facile immaginare che i detrattori utilizzeranno queste cose per dire che un po' tutti subiscono molestie sul lavoro. Sì, questo è sicuramente una delle attitudini che sono state utilizzate con una particolare intensità nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, proprio nel momento in cui il femminismo è diventato un movimento di massa globale che ha portato al centro di ogni discorso politico queste questioni. Basta pensare al MeToo, come ha travolto proprio in seguito alla sollevazione di massa delle donne, insomma alcuni degli ambienti più visibili dal punto di vista mediatico, con gli ambienti di lavoro più visibili dal punto di vista mediatico. Quindi una delle strategie di neutralizzazione è stato quello di cercare di stabilire una simmetria per cui sì, non solo le donne ma anche gli uomini. Il problema è che non soltanto i numeri sono evidentemente inferiori, ma bisogna considerare come si può parlare, e uno di meno per esempio ha parlato, di una femminilizzazione delle posizioni, cioè proprio perché dal punto di vista simbolico, dal punto di vista dei ruoli che la società assegna agli individui, noi non parliamo soltanto di corpi sessuati, ma parliamo di posizioni, di gerarchie, di ruoli che vengono ascritti, e la violenza sessuale è qualcosa che parte dalle donne, che coinvolge le donne in primo luogo, per poi riverberare nella società nel suo complesso, cioè è un pensiero gerarchico che si serve della violenza sessuale contro le donne per intensificare rapporti di gerarchia, di subordinazione e di comando che attraversano complessivamente la società. Questo non stabilisce una simmetria, una uguaglianza con gli uomini, che evidentemente non subiscono la violenza allo stesso modo, ne sono semmai tendenzialmente gli agenti, però dimostra il fatto che, ancora una volta insisto, ciò che le donne subiscono, ma soprattutto ciò che le donne rifiutano, perché è evidente che le donne non vogliono essere né vittime né oggetti né pienamente disponibili, è qualcosa che non riguarda soltanto le donne. In questo senso, non una di meno in Italia, ma non soltanto in Italia, lo sciopero delle donne in particolare è un processo che sta invocando una trasformazione radicale della società.